Senti, tra le perle degli Ah. ultimi giorni, cosa si può. Vogliamo prendere il Gasparri sul questore? Oppure Ma guarda, vogliamo. io lo metto al quarto Al posto, perché quarto. ci ho pensato, perché me l'ha detto prima appunto durante la pubblicità. Io metto tra le idiozie dette durante questa campagna elettorale, metto comunque al primo posto per distacco questa cosa Del cancro. di Berlusconi del cancro, e lo dico da persona che scrisse articoli per difenderlo quando fece la battuta su Obama e quando disse che i magistrati o tra i magistrati c'erano insomma persone com'era antropologicamente qualcosa. Sì. Al secondo posto io metterei Daniela Santanchè con la stupenda frase secondo la quale Bin Laden, sempre che sia vivo, sarebbe contento se alle regionali italiane vincesse la sinistra, no? Prefigurando che, non ha, che è lì, capito, nascosto tra le montagne del Pakistan, che non aspetta altro che i sondaggi di Pagnoncelli per sapere, Un po' appunto. imbeccata Ecco. da Klaus Davi, però comunque l'ha detto. Sì, no, l'ha detto. La terza cosa che è in generale la scritta. Pertini non avrebbe firmato, riferito al decreto che invece Napolitano ha firmato per salvare le liste che non ha salvato, Sì. perché Pertini proprio si vede che non lo conoscono, è un personaggio che tutti i costituzionalisti indicano perché al di là di tutta una serie di pregi in parte noti, non era sicuramente tra i più attenti al dettato costituzionale e della frequenza dei decreti legge, soprattutto non gliene fregava E niente. poi che Al c'entra quarto posto. Pertini, cioè. No, ma così Pertini, c'era la pipa, insomma, ormai è una questione iconografica. E al quarto posto eccoci finalmente a Gasparri che, pur di dire qualcosa contro la questura, siccome la questura fa capo alla polizia e non ai carabinieri che lui adora, riesce a polemizzare appunto nella maniera in cui avete in parte detto. Evidentemente in preda, si riferisce al questore di Roma, virgolettato, evidentemente in preda a stress o in crisi etilica, ha diffuso cifre false. Questo è il virgolettato di Gaspari sul questore e In sostanza ha meno detto male che la il centrodestra. questura di Roma è retta da un ubriaco, parola di Gasparri che io metterei in classifica prescindendo da quello che ha detto.